Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. È una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Primo appuntamento di quest'anno con Nessun luogo è lontano. Da oggi, per tutto il mese di agosto, tutti i giorni accenderemo i riflettori sulla grande attualità internazionale, drizzeremo le orecchie e aguzzeremo lo sguardo sul mondo al di là dei nostri confini. La squadra di quest'anno con me in redazione ci sono Alessandro Balì e Riccardo Poli. In regia a dare ritmo e musicalità alla puntata c'è Mauro De Angeli. Le coordinate per interagire con noi con commenti, osservazioni, domande a me o ai miei ospiti sono SMS 349-238-6666, la mail nessunluogo@radio24.it e poi ci trovate su Facebook alla pagina Nessun luogo è lontano. Ma siccome lo sapete, il titolo del programma è un po' il nostro slogan, siccome nessun luogo è lontano, noi subito andiamo in Siria. E la rivolta siriana è una rivolta di difficile racconto. Avete sentito le reazioni internazionali dai colleghi del GR. È una crisi di difficile racconto perché? Perché i giornalisti non sono ben accetti, perché pochi coraggiosi reporter sono riusciti a entrare. E il rischio qual è? Che una fonte, una unica singola fonte, venga poi presa, rimbalzata da una testata all'altra e diventi appunto l'unica sorgente di informazione. Cerchiamo di capire meglio che cos'è questa rivolta e dove potrà andare a parare. Lo facciamo con i primi due ospiti. Buongiorno a Naman Tarcia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Naman è un giornalista freelance, esperto di comunicazione, di mass media proprio del mondo arabo. A lui chiederemo lumi proprio a partire da questa particolarità della comunicazione della rivolta siriana. Buongiorno anche al professor Massimo Campanini. Buongiorno. Professor Campanini è esperto di storia contemporanea del mondo arabo all'Università Orientale di Napoli. Partiamo dal collega Naman Tarcia, tu sei fra l'altro sei siriano, conosci ovviamente molto bene questo paese. Possiamo sintetizzare quali sono i fattori cruciali di questa rivolta? La possiamo ridurre semplicemente a una rivolta della popolazione contro un, tra virgolette, dittatore oppure no? Allora, chi conosce la Siria capisce subito che è un paese, uno dei paesi medio orientali più complessi, sia per la sua struttura sociale multietnica e multiconfessionale che per la sua posizione geopolitica. Ridurre tutto ciò che succede all'interno del paese a una semplice manifestazione pacifica e repressione di un regime è completamente scorretto, per una serie di motivi. Il paese da anni vive bisogni di cambiamento e di riforme, tutto poi è aggravato con la crisi ovviamente economica mondiale e poi la continua instabilità della zona. Allora ci sono stati bisogni reali della gente e della popolazione, e dall'altra parte c'è stato anche un ritardo ingiustificabile delle riforme del paese nella Costituzione, in tante leggi oggi risalgono agli anni 60. Accanto a tanti siriani che vogliono e credono ancora ad Assad, c'è gente contraria e si oppone al suo regime, tra questi diversi intellettuali, scrittori e artisti. Anche se ci sono stati questi oppositori repressi a lungo, ma oggi anche loro ammettono che non rappresentano veramente la popolazione siriana. Non c'è dubbio che ci sono stati diversi scontri, manifestazioni represse fortemente nell'onda di quello che è stato chiamato di quella che è stata chiamata la primavera araba. Poi la mappatura della comunità religiosa e tribale in Siria spiega la posizione di alcune minoranze come quella cristiana e quella drusa, che credono ancora nelle riforme del regime e temono la deriva islamica nel paese, e come mai tutto quello che succede di scontri succede in zone specifiche, non nella capitale o ad Aleppo, la città del nord, e come mai tutto concentrato sulle città di confine. Dall'inizio delle manifestazioni, manifestazioni proteste anti-regime sono state represse fortemente, come abbiamo detto, dall'esercito e dalla polizia non preparata a questo tipo di manifestazioni. Però in mezzo a questo ci sono stati gruppi che hanno forze politiche sia interne che esterne che volevano approfittare della situazione, tra questi anche i Fratelli Musulmani, sì. Il movimento di matrice sunnita bandito in Siria. Questo movimento ha tentato, dopo il tentato fallito di un colpo di Stato negli anni '80, oggi non ha credibilità all'interno se non nelle zone della comunità sunnita proprio. Dunque hanno approfittato della situazione con le manifestazioni antiregime per prendere il potere, tentare di prendere il potere con le armi, dichiarando perfino in alcune zone lo Stato islamico. Ecco, quindi c'è una componente di questa rivolta che è armata, che è quella che hai precisato tu, che è un fattore di cui dobbiamo tenere conto. Professor Campanini, il ruolo della Siria negli equilibri medio orientali, perché è così importante questo paese? Ma paradossalmente si potrebbe dire che la Siria è stato negli ultimi tempi un fattore di equilibrio in una delle zone più travagliate e più, da un certo punto di vista, pericolose del globo, perché la Siria ha svolto una funzione di mediazione tra la potenza iraniana della Repubblica Islamica d'Iran, tra Israele e la situazione molto ballerina che esiste tuttora in Libano. Questo è dovuto a una politica che per lungo tempo è stata una politica di pragmatismo da parte di Bashar al-Assad e da parte della dirigenza siriana, per cui se dovesse crollare il regime di Bashar al-Assad potrebbe portare una ventata di disequilibrio all'interno della regione dai risvolti imprevedibili. Questo fa sì naturalmente che si possa spiegare anche in un certo senso la ritrosia e la cautela con cui l'Occidente guarda questa situazione, usando indubbiamente una sorta di doppio standard di due pesi e di due misure per quanto riguarda la situazione in Libia e per quanto riguarda la situazione in Siria. Ecco, quindi due pesi, due misure. Certo, sulla Libia c'è stato un interventismo appunto di tutt'altra natura, ma c'erano anche interessi di altra natura. Naman, che cosa farà secondo te la comunità internazionale? Credi che questa ritrosia di cui parlava il professor Campanini, come dire, rimarrà immobilismo, rimarrà attendismo? È stata, probabilmente verrà convocata una riunione di sicurezza del Consiglio dell'ONU a brevissimo per cercare di capire se si possono imporre almeno sanzioni. Senza dubbio dobbiamo vedere chiaro quello che viene dichiarato in pubblico e quello che viene poi condotto nelle negoziazioni e nelle linee diplomatiche in un certo senso. La Siria per la sua natura e per i suoi collegamenti con diverse questioni irrisolte in Medio Oriente è un paese chiave. Non è pensabile risolvere la situazione alla Libia facendo un interventismo così veloce senza rendersi conto, anche perché quello che sanno tanti, quello che non viene spesso riportato, che questo regime ha dietro una popolazione che abbastanza lo sostiene all'interno, quindi non tutto quello che viene dimostrato corrisponde alla verità. Sì, qui torniamo diciamo all'inizio, insomma abbiamo aperto questa trasmissione dicendo appunto che c'è una complessità nella situazione siriana che spesso i media semplificano per come dire una carenza di fonti dirette in questo momento. Allora io ringrazio intanto Naman Tarci, giornalista freelance che è stato con noi, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. E ringrazio e saluto anche il professor Massimo Campanini dell'Orientale di Napoli. Grazie professore, una buona giornata. Buona giornata. Allora, questo è quello che sta accadendo in Siria, il Medio Oriente, insomma, si prospetta un'estate decisamente intensa e calda. Da questo punto di vista noi per tutto agosto cercheremo di rendervene conto, ma adesso ci spostiamo decisamente e vi porto a Dadaab in Kenya, nel nord del paese, quasi al confine della Somalia, dove c'è probabilmente il più ampio, il più grande campo profughi del mondo. Questa è la distribuzione di aiuti di una delle tante ONG presenti sul campo. Il campo di Dadaab sta accogliendo centinaia di migliaia di rifugiati, dicevo è probabilmente il più grande in questo momento al mondo. Fuggono soprattutto dalla Somalia, dove è vero, la siccità, la carestia sta piegando un paese, ma dove è anche in corso una guerra civile oramai da 20 anni. Cerchiamo di capire meglio che cosa sta accadendo lì a Dadaab. Lo facciamo grazie a Vincent Annoni, che in questo momento è a Nairobi, ma fa la spola tra Nairobi e Dadaab ed è responsabile per il CESVI di Kenya, Sudan e Somalia. Buongiorno Vincent. Buongiorno a tutti voi. Allora, che cosa sta succedendo a Dadaab in questo gigantesco campo profughi? Qual è la situazione? La situazione del Dadaab è tutt'oggi ancora critica, sin da quando è iniziata questa crisi della siccità, perché continuiamo ad avere un afflusso quotidiano di rifugiati dalla Somalia sempre ampio. Insomma, raramente scendiamo sotto le 1000 persone che arrivano al giorno, e quindi dal punto di vista proprio delle capacità di accoglienza delle organizzazioni umanitarie le risorse sono sempre più limitate. Nessun luogo è lontano. Allora, ancora una buona giornata, gentili ascoltatori. Oggi a Nessun Luogo è Lontano stiamo parlando della crisi che sta investendo il Corno d'Africa e in particolare la Somalia. Siamo in linea con il responsabile CESBI per Kenya, Sudan e Somalia, che è Vincent Annoni, che ci sta raccontando meglio qual è la situazione del campo di Dadaab. Vincent, come sta reagendo il governo keniota a questa emergenza? Da sempre il Kenya è un paese che vive quella che è l'emergenza, la crisi somala. Addirittura nei mesi scorsi vi sono state scorribande degli estremisti al-Shabaab proprio ai confini. Quindi un paese che spesso viene toccato dalla crisi somala. Come ha risposto a questa emergenza? Ma il Kenya, Somalia, Etiopia, insomma, hanno tutti questi confini in aree nel quali i movimenti delle comunità pastorali sono sempre esistiti, per cui a volte c'è anche una sorta di, come dire, di comprensione nei movimenti delle popolazioni. La difficoltà in questo momento è stata più che altro relativa ai campi rifugiati di Dadaab, in quanto comunque un governo deve dare le autorizzazioni per accogliere queste persone su determinate aree, ecco, e soprattutto deve dare l'autorizzazione all'UNHCR, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, per come e dove accogliere questi rifugiati. Siccome originariamente i campi di Dadaab, creati 20 anni fa, erano previsti per 90.000 persone e ora stiamo quasi raggiungendo le 400.000, chiaramente questi luoghi ormai non sono più sufficienti. Certo. E pertanto si è dovuta avviare una prassi burocratica per riuscire ad avere nuovi terreni. Certo. Quindi adesso sembra che siamo alla conclusione di questo percorso. Certo è che è un percorso che richiede molto, che richiede anche, diciamo, un dialogo politico oltre che economico. Ecco, Annoni, il flusso di cui parlavi prima, di questi 1000 profughi che attraversano il confine ogni giorno e arrivano nel campo, sono tutti profughi che scappano, diciamo, dalla carestia, dalla siccità, o il flusso, come dire, inizia ad accogliere anche persone che approfittano in qualche modo, no, di questa massa di persone che sta viaggiando e magari non sono tutti affamati, non sono tutti in quelle condizioni che i media ci stanno proponendo? Insomma, abbiamo visto immagini incredibili, raccapriccianti, di bambini ridotti veramente all'osso. No, in questo periodo chi scappa dalla Somalia scappa perché non ha nulla, proprio nel modo più assoluto. Se negli anni passati, quando la situazione somala sembrava essere migliorata, c'era effettivamente una casistica di famiglie che il capo famiglia, diciamo, portava ad Adab in modo da assicurarsene che fossero assistite, per poi provare a passare il Golfo di Aden in solitario per emigrare. Oggi questo non è assolutamente il caso. Oggi chi arriva al campo rifugiato di Dadaab ha lasciato dietro di sé tutto ed è veramente la sua ultima speranza. Che cosa manca a Dadaab? A Dadaab mancano servizi sufficienti per oltre 350.000 persone, nel senso che per quanto sia un campo che ormai esiste da molto tempo e molti servizi sono già in essere, questo flusso così massiccio è praticamente il triplo di quanto si registrava negli anni precedenti, quindi bisogna incrementare la capacità di risposta, che vuol dire banalmente fornire l'acqua, fornire il cibo, le cure mediche, la protezione per le persone più vulnerabili, bambini, donne, anziani che possono anche essere vittime di violenza. Quindi mancano un po' tutti questi aspetti in misura sufficiente per tutti i nuovi arrivati. Grazie allora a Vincent Annoni per questa tua testimonianza, responsabile CESVI per Kenya, Sudan e Somalia. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. La siccità e la carestia che sta colpendo il Corno d'Africa si dice tocchino 11-12 milioni di persone, sono stime quelle che possiamo fare, perché effettivamente in alcune zone del Corno d'Africa non possiamo letteralmente andarci, parlo di buona parte della Somalia, in parte dell'Eritrea, che è un paese di cui si parla molto poco ma è fondamentale. Allora è vero, esiste una crisi umanitaria, è vero, le immagini le abbiamo viste, sono incredibilmente forti, però c'è un problema politico, è un problema politico che un editoriale autorevole di Foreign Policy, Charles Kenny, credo abbia centrato in maniera molto molto lucida. Charles Kenny dice: la carestia è un crimine contro l'umanità. Cioè, va bene parlare delle casse di cibo di cui c'è bisogno, va bene parlare dei medicinali di cui la popolazione ha bisogno, esiste però un problema politico. Il problema è la Somalia, è questa grande massa oscura del Corno d'Africa, difficilmente indagabile perché è uno dei luoghi più pericolosi al mondo, ma allo stesso tempo così strategico e così importante. Per questo noi adesso vorremmo concentrarci proprio su questo paese. Lo facciamo, vi faccio ascoltare il commento di Matteo Guglielmo, che è un africanista, è un ricercatore dell'Orientale di Napoli, è probabilmente uno dei maggiori esperti di Somalia in Italia, e l'ho sollecitato su questo tema, il crimine politico, cioè carestia come crimine politico. In Somalia c'è una guerra in corso, non è una guerra normale, cioè non vede contrapposti solo Al-Shabaab e le milizie del governo transitorio, appunto protette dal contingente Amisom, ma si innestano anche quelle che sono le dinamiche della guerra al terrore. Quando Shabaab chiude alle agenzie internazionali o di aiuto umanitario dell'ONU, lo fa perché in realtà è in corso anche quel tipo di guerra. Faccio presente che se Kerry parla anche di crimini dell'umanità, negli Stati Uniti è in vigore una struttura che è denominata Office of Foreign Assets Control, cioè che vigila e impedisce al tesoro americano di mobilitare risorse finanziarie per progetti o aiuti diretti in luoghi dove vi è il comprovato rischio di creare vantaggi anche per gruppi inseriti nella blacklist. Cioè, ciò vorrebbe dire che se Al-Shabaab resta per Washington un'organizzazione terroristica connessa ad Al-Qaeda, saranno automaticamente escluse dagli aiuti USA tutte le popolazioni che si trovano sotto l'amministrazione del movimento islamista. Quindi anche questo c'è da dire, e anche questo c'è da dire che aggrava ancora di più la questione, perché di fatto vi è anche quel tipo di guerra. E la Somalia quindi è un buco nero, è vero, ma l'importanza strategica è fondamentale, tant'è che gli Stati Uniti da tempo hanno puntato gli occhi sul Corno d'Africa per tutta una serie di motivi, non da ultimo il fatto che Al-Shabaab da qualche anno si è ufficialmente affiliata ad Al-Qaeda, e quindi, come dire, preoccupazione alla Casa Bianca ne dà parecchie. Vi ricordo le coordinate per interagire con me e i miei ospiti: 349-238-6666 se avete domande condensate in 160 caratteri, la mail nessunluogo@radio24.it. www.nessunluogoelontano.it, la pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano. Ma allora, stiamo parlando di Somalia, cerchiamo un attimo di fare il punto, perché la storia somala, soprattutto negli ultimi 20 anni, è piuttosto complicata. Cerchiamo un attimo di capirla meglio. La Somalia ha vissuto senza un governo centrale effettivo da quando il presidente Siad Barre è stato spodestato nel 1991. Compreso tra un protettorato inglese e una colonia italiana, lo Stato è nato dalla fusione dei due territori nel 1960. 10 anni dopo, Barre lo proclama Stato socialista, aprendo la strada ad una relazione di vicinanza ideale con la Russia. Nel 1993 Mohamed Farah Aidid, politico e militare, già collaboratore di Siad Barre, si confrontò con Ali Mahdi per il controllo della Somalia, dando vita ad una battaglia in seguito alla quale il centro di Mogadiscio fu diviso dalla cosiddetta Linea Verde. Aidid divenne uno dei maggiori bersagli di Restore Hope, missione di pace appoggiata dalle forze NATO e ONU, allo scopo di arginare la disastrosa carestia che tormentava il paese e sconfiggere i cosiddetti signori della guerra. Il programma non ebbe l'esito sperato e si concluse nel maggio del 1993 con il ritiro del contingente. Aidid si dichiarò presidente dello Stato. Nel 2009 Sheikh Sharif Ahmed, islamista moderato, viene eletto presidente, ma il suo governo coinvolge solo alcune zone della capitale, Mogadiscio, con l'aiuto delle forze armate. La maggior parte del resto del paese è nelle mani di gruppi di ribelli di Al-Shabaab, che vogliono imporre la legge islamica in Somalia. Nello stesso anno un loro attacco alla capitale costringe il presidente a chiedere aiuto alle forze internazionali. Al-Shabaab ha ufficialmente dichiarato la sua alleanza con Al-Qaeda. La lunga assenza di autorità nel paese ha portato i pirati somali a diventare un'importante minaccia negli scambi marittimi, compromettendo l'economia della regione. Nel 2011 le già precarie condizioni di vita del popolo somalo vengono esacerbate da quella che si rivela la più grande siccità degli ultimi 60 anni, piaga che porta milioni di persone a patire la fame ed emigrare verso il Kenya e l'Etiopia in cerca di cibo. Insomma, crisi si aggiunge crisi, il Corno d'Africa è decisamente sfortunato da questo punto di vista. Il ruolo degli interessi internazionali in Somalia sono ampi, sono pesanti, sono corposi, sono strategici, però nonostante tutto questo, da quando c'è stato il ritiro dei caschi blu dell'ONU e quella disastrosa missione poi dei Marines, che poi è stata in qualche modo raccontata anche nel film Black Hawk Down, da cui abbiamo tratto parte della colonna sonora di questa puntata, insomma, bene messo in luce. Nonostante ciò, c'è chi a Mogadiscio ci va, ed è fra l'altro il nostro sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica. Buongiorno. Buongiorno a voi. Innanzitutto complimenti per il coraggio, sottosegretario. Beh, sì, voglio dire, però rientra anche, come dire, nei ruoli che uno deve assumere, insomma. Sì, no, la mia non era una battuta, nel senso che Mogadiscio sappiamo molto bene. No, Mogadiscio non ci si va facilmente, ecco. Devo dire, era molti anni che non andava nessun rappresentante di governo italiano, e devo dire anche di rappresentanti di governi stranieri occidentali, nel senso Europa e Stati Uniti, direi che molti anni che non ci va nessuno. Ci sono alcuni funzionari dell'ONU, ci sono quattro ambasciate di paesi islamici, e poco altro, direi. D'altronde, se vogliamo che il governo somalo cominci a governare da Mogadiscio, è anche giusto andare a visitarli a Mogadiscio, e quindi è impoglio di restare lì, insomma. Fra l'altro, sottosegretario, io ho sentito qualche ora fa Hassan Osman Abdi, che è il direttore di Radio Shabelle, che è una radio indipendente, che con grande coraggio trasmette da Mogadiscio e racconta quello che sta accadendo, che insomma trasmette buone notizie per i governativi. Ascoltiamolo insieme. The fighting is started as the government forces and the MSM troops start. Gli scontri tra il governo di transizione e i gruppi di Al-Shabaab continuano senza interruzione per il controllo del mercato di Bakara, che è il più grande della Somalia. Il governo e Amison detengono il controllo dell'area nord del mercato e gli scontri proseguono. I guerrieri di Al-Shabaab sono stati respinti e il mercato di Bakara è ancora sotto il controllo del governo. Ora ci sono degli scontri in alcuni distretti vicini alla capitale, Mogadiscio, e le truppe di Al-Shabaab continuano ad essere respinte. Insomma, la presa del Bakara Market è una notizia, perché è un simbolo, un luogo strategico a Mogadiscio. Nessun luogo è lontano. Allora, nessun luogo lontano, stiamo parlando di Somalia. Rispondo molto velocemente un SMS di Laura che mi chiede, mi sfugge il nesso tra legittima attenzione degli USA a non finanziare indirettamente i terroristi e la carestia come crimine contro l'umanità. In realtà la carestia come crimine contro l'umanità è, diciamo, il punto di vista, la lente attraverso la quale Charles Kenny su Foreign Policy ha in qualche modo stigmatizzato, ha puntato il dito contro gli Al-Shabaab che nel momento in cui non permettono alle agenzie umanitarie di fare il loro lavoro, compiono un crimine contro l'umanità. Torno al sottosegretario Mantica. Allora, se cade Bakara, in qualche modo Mogadiscio, come dire, non è che possiamo dire che è già nelle mani dei governativi, però quasi. Io dicevo, l'11 di luglio ho avuto un incontro anche con il comando di Amison, cioè di queste truppe dell'ONU che stanno a Mogadiscio e che operano insieme alle forze speciali somale, anche perché il governo italiano dà un aiuto importante sia ad Amison che alle forze speciali somale. Innanzitutto, già allora avevamo parlato di Bakara, c'erano i primi segnali, perché Bakara è un grandissimo mercato per chi conosce. Diciamo, il mondo arabo poi è assomigliato a un grande souk, quindi vi è strettissime case una dentro l'altra, cortili molto belli, cioè nessuno, diciamo così, dal punto di vista militare, nessuno si sente di entrare nel mercato di Bakara. C'è stata un'operazione che durava ormai da un mese circa di soffocamento della realtà del mercato, gli operatori commerciali avevano cominciato ad uscire e ha realizzato in questi giorni l'obiettivo che è quello di controllare Bakara, che vuol dire controllare in gran parte anche l'economia, per quanto disastrata, della città di Mogadiscio, un luogo che è praticamente il nord-est della città e quindi una delle quattro aree importanti della città, e un luogo simbolo perché lì a Bakara si è sempre, come dire, annidato il quartier generale dei vari warlord, dei vari capi ribelli, lo stesso quartier generale degli Al-Shabaab, quindi sì, al di là del valore territoriale, il che vuol dire che potremmo fare conto che Mogadiscio entro forse fine settembre, fine ottobre dovrebbe essere totalmente liberata e consegnata alle forze speciali somale, o se volete ai soldati somali. E questa, diciamo, già potrebbe essere una notizia. L'altra notizia, Come io sento spesso, io vorrei ricordare che la Somalia è un po' più grande di Mogadiscio. E noi dobbiamo tenere conto che Somaliland e Puntland, che sono grosso modo il centro nord della Somalia, non è che il livello di sicurezza sia come quello della Svizzera, però diciamo che lo stesso ONU riconosce che sono livelli di sicurezza differenti, assolutamente accettabili. Sì. E quindi diciamo che circa metà della Somalia non è controllata dagli Shabaab. Gli Shabaab controllano da Mogadiscio verso il Kenya, cioè il centro-sud, ma soprattutto il porto di Kisimayo. Sì. E quindi c'è un problema non a caso, e qui viene anche la risposta che ha dato l'SMS. È chiaro che nelle zone dove c'è un minimo di sicurezza, quindi un minimo di governo, un minimo di risposta di una pubblica amministrazione, c'è carestia, ma voglio dire prevale quella di carattere climatico, cioè in qualche modo c'è ancora qualche pozzo d'acqua che funziona, ci sono stati interventi dei governi locali, quindi nel Somalia del Puntland si contrasta la carestia, che comunque ha dimensioni incredibili, pare che sia la carestia peggiore degli ultimi 60 anni, sì, mentre invece è assolutamente fuori controllo, oltretutto c'è un impedimento ad aiutare nelle aree controllate dagli Shabaab, la fuga verso i campi profughi è certamente dettata dalla carestia e la molla. Non dimentichiamo che in gran parte la gente fugge dagli Al-Shabaab. Sì. A caccia di un'altra notizia, lei tornando da Mogadiscio disse: apriamo l'ambasciata italiana entro fine anno. Può confermare questa cosa? Sì, confermo. Questa è la volontà politica che dovrebbe corrispondere alla, diciamo, alla situazione che descrivevamo prima della città. Se dovesse cambiare, come sempre, si cambierà anche l'opinione. Allo stato dei fatti di oggi direi l'apriamo attorno a novembre, ottobre-novembre, insieme all'Unione Europea, insieme probabilmente all'Inghilterra. C'è già una rappresentanza dell'ONU che verrà rinforzata grosso modo attorno alla fine dell'anno, e questo sarebbe anche qua un gesto importante. Io voglio sottolineare, quando parlo di ambasciate parliamo di un ufficio all'interno di un container, cioè certo, tipo gli uffici dei cantieri, ecco, non è che abbiamo ville con piscina. No. E quindi c'è una presenza politica di stati della comunità internazionale e della comunità internazionale stessa su Mogadiscio Questo contribuisce ad aumentare, come dire, la presenza istituzionale a Mogadiscio, contribuisce a rafforzare la presenza di Hamilton, delle forze del governo, e con questo noi vogliamo spingere al rafforzamento delle istituzioni. Che ricordo, la presenza di Amisom, sono 9.000 al momento soldati ugandesi e burundesi che fino a circa 2 anni fa prendevano delle grandi batoste dell'Al-Shabaab, mi si passi il termine un po' gergale, adesso pare che si siano militarmente organizzati meglio. Su cosa deve fare l'Italia, sottosegretario? La sollecito tramite Matteo Guglielmo, ascoltiamo insieme. Innanzitutto ritrovare un approccio di equidistanza rispetto ai gruppi armati. Cercare di lavorare sul locale più che sul nazionale, cioè mi spiego, più che sostenere un governo che in questo momento non va oltre Mogadiscio, sarebbe opportuno in qualche modo iniziare ad attuare delle sinergie con diversi territori della Somalia, perché la Somalia dopo 20 anni di guerra civile è un territorio eterogeneo dove diverse amministrazioni locali funzionano, altre meno, ci sono zone di stabilità e altre zone invece dove la stabilità in qualche modo ormai è una realtà. Quindi adottare un approccio, ecco, poliedrico, più flessibile da parte della comunità internazionale sarebbe certamente auspicabile, fermo restando che proprio da Restore Hope, proprio dalla missione UNSOM degli anni 90, in qualche modo la Somalia ha maturato negli anni una sfiducia profonda verso le strutture UN. Questo va recuperato. Io penso che l'Italia in questo possa fare molto, perché l'Italia conosce in qualche modo le diverse dinamiche, le diverse realtà locali del paese e dovrebbe porsi alla guida di un gruppo di donors internazionali che vogliano in qualche modo adottare una strategia complessa. Questo credo che abbia le potenzialità per farla, staremo a vedere. Sottosegretario, abbiamo le potenzialità per fare questo? Fino adesso abbiamo dialogato con il governo transitorio di Sheikh Sharif, è possibile scendere sul campo, parlare con Al-Shabaab? Ma io credo che scendere sul campo con la Shabaab non siamo in grado. Vorrei però precisare che qua, prima di tracciare una linea netta e dire no, io credo che gli Al-Shabaab siano più o meno paragonabili ai talebani, cioè si sa che di cosa si parla ma non si sa che cosa sono. Cioè, nel senso, è chiaro che quando noi parliamo di Al-Shabaab nell'opinione pubblica si presenta questo gruppo di radicalismo islamico collegato strettamente ad Al-Qaeda, e come sappiamo noi Al-Shabaab è guidato anche da una cupola da noi definita araba, cioè voglio dire di gente non somala. Sì. Voglio ricordare, solo per capire qual è la situazione, che gli Stati Uniti hanno avuto un loro cittadino, l'unico cittadino americano kamikaze, radicalista islamico, e si è suicidato, ed è un somalo di cittadinanza americana, cioè anche la diaspora è presente, ci sono anche inglesi. Esatto, esatto. Una recente inchiesta di Al Jazeera numerava in almeno una ventina i somali con passaporto britannico che si recano ogni 6 mesi a Mogadiscio per abbracciare il jihad, addestrarsi e eventualmente tornare in Europa. Quindi è vero che c'è anche un problema della diaspora somala nel mondo, per cui, ed è anche vero che vi sono combattenti, alcuni dicono addirittura afghani e pakistani, tra le file di Al-Shabaab, che rimane un punto di domanda, ma come dire, è una complessità, ci sono dei clan ben precisi all'interno di Al-Shabaab, quindi sono delle persone con cui possiamo andare a parlare, esatto, o no? Sono quelli che noi definiamo con agenda somala, cioè che si muovono in quel contesto ma hanno degli obiettivi. Parliamo per esempio del famoso porto di Chisimaio controllato dal Shabaab, tutti noi sappiamo che il clan dei Marean, che in realtà controlla il porto, poi la sicurezza è data dagli Shabaab, come diciamo noi, les affaires sono les affaires, o business is business, e qui l'aspetto politico o di diretta islamico non viene nemmeno considerato. Però un tentativo può anche essere quello di recuperare queste realtà claniche a un discorso inclusivo da parte del TIEP. Per dire cosa possiamo fare, quella osservazione di operare sul territorio, nelle regioni diciamo in qualche modo autogovernate, con un minimo di sicurezza e di strutture, che poi sono sostanzialmente 3, e cioè i somali nel Puntland e Galgadud, tutte e 3 a nord di Mogadiscio, c'è un primo problema che noi dobbiamo tener conto, perché noi abbiamo rapporti con alcune di queste realtà, la costa di queste realtà è quella dei pirati, quindi ci si muove anche lì con molta attenzione, perché se da una parte hai Al-Shabaab, dall'altro hai la criminalità organizzata che organizza queste delle navi. Però lo sforzo lo stiamo facendo, ci sono anche delle ONG italiane che operano attraverso loro collegate somale in quest'area, sono quelle dove, per esempio, ripeto, si può pensare, come si sta facendo, di far arrivare attraverso corridoi umanitari gli aiuti direttamente sul territorio. Sì. Rafforzare il governo nell'immagine di una Repubblica Federale Somale, quindi con un governo molto leggero, centrale, che ha funzioni tipo la difesa e gli esteri, ma con grosse autonomie locali che corrispondono, diciamo poi onestamente, a delle aree abbastanza omogenee dal punto di vista clanico, dove un clan prevale abbastanza per garantire l'ordine e la sicurezza. Questa è un po' la situazione, peraltro nuova, perché anche questo è il risultato di un lungo periodo di assestamenti e di spostamenti anche di interi clan da una parte all'altra, anche in funzione di come andava questa guerra civile. Allora, grazie sottosegretario Mantica per essere stato con noi, un buon lavoro e una buona giornata. Grazie. Allora, questa è la situazione somala, questi sono gli impegni dell'Italia, quindi potremmo vedere l'ambasciata italiana aperta entro fine anno, ma io voglio salutarvi con le parole di Abukar, che è un magazziniere di 72 anni, che ho incontrato a Mogadiscio 2 anni fa, che non parlava con un italiano da 20 anni e che dice queste cose. È tutto bello quando c'è la pace, tutto è bello, l'aria, tutto è bello, il mangiare, andare a divertirsi, tutto è bello. Non come ora che siamo in mezzo al fuoco. Allora, tempo scaduto, 13:57, 30 secondi. Io devo ringraziare Riccardo Poli, Alessandro Balia in redazione, Mauro De... mi sono dimenticato, De... già... De Angeli, ecco. Mauro De Angeli a dare musica e ritmo a questa puntata. Nessun luogo lontano ritorna domani 13:15 precise. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.